Mix 24 di Giovanni Minoli. Netflix is coming, per la felicità, bisogna dirlo, di tutti gli italiani che ormai vivono di streaming, guardando con invidia e rassegnazione i nostri amici d'oltreoceano ed europei, che già possono godere dei vantaggiosissimi prodotti. Allora, dopo tanta attesa, ieri Netflix è arrivato in Italia. Missione: cambiare per sempre il mondo della televisione. Ma intanto, gli italiani che cosa ne sanno? Giovanna Corsetti è andata a scoprirlo per noi. È appena arrivato Netflix in Italia, cosa ne pensa? No, aspetti, lui è l'avvocato. Io Netflix purtroppo non so cos'è. Oddio, non so che è Netflix. Neanch'io lo so. Io guardo così poca televisione, sono così, preferisco un libro, quindi... Lei sa cos'è? No, assolutamente. No. No, non so cosa sia. No. No. No. No. Non vedo per niente TV. Sì. E che cosa ne pensa? Penso che è una cosa ottima per noi. Ma io non conosco molto, però un amico attore mi sembra piuttosto felice. Netflix sarà un social network? No. La strada è buona. Vuole provare a spiegarglielo lei cos'è Netflix? È una specie di piattaforma dove c'hai serie TV, anche programmi televisivi. Però la differenza è che si può fruire su qualunque tipo di supporto. Quindi computer, televisione, lo puoi vedere dove pare. Cioè dove? Telefono, iPad. Adesso le interessa di più? Forse sì. Quanti anni ha lei? 20. E lei? 19. A me non interessa. Decisamente sì, quando si tratta di tecnologia e questi servizi va sempre tutto bene, specialmente oggi come oggi. Lei quanti anni ha? 26. No, io non lo so, mi dispiace. Io sarei interessata a documentari se ci fossero, ecco. In televisione ne trova pochi? Sì, nella televisione italiana è pochissime. Mercante Netflix, sì, lo conosco. Pensa di usarla? Sì. Io sì, penso che sia una bella cosa, soprattutto per gli appassionati di serie TV e telefilm, insomma, mancava una piattaforma del genere. E intanto, per saperne di più, allora sentiamo Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università di Bologna. Professor Doglio, con l'arrivo di Netflix, siamo alla TV dopo la TV? Siamo a una cosa che assomiglia maledettamente alla TV dopo la TV, perché Netflix sembra proporre un modello di consumo televisivo radicalmente diverso, ecco, ma non come più basato. Come funzionerà? Funzionerà che con tre livelli di abbonamento, adesso mi pare che avranno fissato i prezzi a 7,90, 8,90, 10,90 a seconda della qualità di ricezione, sarà possibile accedere a pagamento, ma una cifra molto bassa mensile, a una quantità di film, telefilm e documentari che nessun altro operatore al mondo è in grado di proporre, 50.000 titoli. Ecco, ma è la fine dei palinsesti lineari come sono stati finora? Probabilmente sì. Che cosa lo andrà a sostituire non si sa ancora, ma il vero elemento di interesse di Netflix è questa squadra di 150 analisti che costruiscono la tua area di interesse e ti propongono giorno per giorno una serie di alternative possibili tra quelle che dovrebbero rientrare nel tuo interesse. Vabbè, quindi sono dei palinsesti nuovo, un po' più mirati, palinsesti molto, un po' molto personalizzati. Molto personalizzati, che però tolgono anche l'ansia di dover scegliere tra 50.000 titoli, certo, che sarebbe spaventosa. Certo. Ma trema di più la televisione on demand di fronte a Netflix o quella generalista? Ma paradossalmente io credo che quella generalista avrà un periodo più lento di sofferenza, sì. Mentre quella on demand probabilmente, una volta che si saranno assestati i nuovi diritti, perché questo è il tema, avrà dei grossi problemi, perché Netflix diventa anche un grande protagonista della produzione. Certo, non solo, e ci arriviamo. Ecco, però intanto nel mondo il consumo di televisione generalista aumenta e non diminuisce, perché? Aumenta perché le statistiche mondiali aggiungono i nuovi paesi nei quali la televisione comincia a seguire, anche se sarà molto più breve del passato, un percorso simile al passato, quindi c'è più consumo perché si aggiunge l'Africa, perché si aggiungono aree di Asia che prima non erano prese in considerazione. Ma anche perché sulle varie piattaforme in realtà si commenta, si usa, si consuma televisione generalista. Non c'è dubbio, si consuma televisione, si consumano generi e sottogeneri della vecchia televisione, ma attenzione, la televisione è palinsesto, è capacità, certo, di offerta in appuntamenti, è quella che va in crisi. Certo. Senta, però in Italia la serie di punta di Netflix sono già in onda su Sky, come questa, senta qua. Credete che vi abbia dimenticato? Magari lo speravate. Non sprecate lacrime per compiangere Zoe Burns. Ogni gattino cresce per diventare un gatto. Sembrano così indifesi all'inizio, piccoli, tranquilli. È bello vedere quando prendono il latte. Ma una volta che imparano a graffiare, fanno sanguinare. A volte la stessa mano che le nutre. Quelli che sono al vertice della catena alimentare non possono avere nessuna pietà. Esiste una regola sola. O cacci, oppure vieni cacciato. Ecco, era Kevin Spacey in apertura della seconda stagione di House of Cards, che però in Italia non sarà su Netflix. Eh no, non può, perché quando Netflix ha prodotto House of Cards, ricordiamo che è la sua prima produzione originale, ha ceduto i diritti di utilizzazione per altri paesi senza tener conto che sarebbe stata molto più rapida la sua corsa verso anche quei paesi. Su House of Cards non ha fatto un accordo con Sky, lo ha fatto su Orange is the New Black, che è la seconda serie di grande successo che è in onda su Mediaset Premium. Cioè avrà la possibilità di utilizzare una delle due sue spade che l'hanno portato fino adesso a tranciare le difese e a entrare su tutti i mercati. Certo, farà più fatica. Ma... Però si dice anche che dietro queste famose serie capiterà con Sky quello che è capitato con Sky prima, con Berlusconi ancora prima, cioè stanno comprando i diritti di tutte le library delle major americane, cioè si ritorna al dietro, nascoste dietro queste serie importanti, ci sarà il magazzino. Il magazzino è fondamentale per tutti, però ci sono due cose importanti. Una, Netflix, dopo aver fatto un accordo con Epix, che è un consorzio che rappresenta quattro delle sette grandi sorelle, diciamo, della produzione, delle majors hollywoodiane, il contratto è scaduto quest'anno ed è stato non rinnovato con Netflix, è stato passato a Hulu, che è un concorrente americano di Netflix controllato dalle grandi majors. Ma Netflix ha risposto con una decisione strategica molto importante: 20 nuove serie originali prodotte ogni anno. Quindi 20 nuove serie. Molto di più sulla televisione, sulla serialità televisiva, che non sul cinema, perché ovviamente la partita è quella. E quindi in Italia i produttori di fiction avranno un nuovo committente. Esempio è già, certo, già sul piatto, già, Suburra, sì. L'accordo sì. Con Rai e con Cattleya per produrre la versione seriale di Suburra, che peraltro, guardi, io sono appena tornato negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nell'offerta Netflix, Suburra è già presente, mentre è appena uscito in Italia. Ecco, senta, ma Netflix ha tutto quello che ha detto, che cos'è che non ha? Che cos'è che non ha? Netflix ha delle fragilità, che sono la necessità di investire in maniera enorme. Tutti gli anni l'ordine di grandezza delle cifre di investimento in produzione sono superiori ai 2 miliardi di dollari, e la necessità di rispondere ogni tre mesi alle ansie degli azionisti in borsa, che sono due fattori: necessità di un investimento sistematico annuale molto alto, almeno il 10% in più all'anno di quello che investono i grandi network americani, a confrontarsi con degli azionisti che hanno bisogno di vedere un titolo che cresce continuamente. Ma per esempio in Italia, senza la banda larga, come fa a espandersi Netflix? Seguirà la crescita della banda larga. Quindi non sarà la lento. Banda larga in Italia non ci sarà. No, ci sarà, ma con molta lentezza. Non sono ancora neanche d'accordo su chi la deve fare. Però attenzione, perché poi operatori come Telecom, che sono comunque gli incambi, sono comunque i soggetti dominanti, con Netflix hanno già fatto l'accordo. Perché anche per loro è fondamentale avere un driver, un portatore di traffico che spinge la domanda di banda larga. E quindi da questo punto di vista è la loro killer application. Due o tre anni invece che un anno, però insomma i dati di crescita. Ecco, il problema è che Netflix cresce in tutto il mondo, e quindi può permettersi di rallentare in Francia, in Italia, parte. In Germania, tanto cresce da un'altra parte. Senta, ma in questo quadro la crisi dell'Auditel di questi ultimi di queste ultime settimane diventa irreversibile come strumento di misurazione degli investimenti? Direi di sì, perché diventa irreversibile lo strumento di misurazione dell'audience, dell'ascolto. Quando l'audience è così frammentata e si spinge un modello di consumo totalmente personalizzato, che prevede che non ci sia più un momento in cui più persone insieme guardano la stessa cosa, diventa molto difficile calcolare i valori di investimento pubblicitario, tant'è vero che questo modello così grosso, così impegnativo e ingombrante vive tutto sugli abbonamenti. Certo. Non c'è pubblicità, no, in Netflix. Naturale. Professor Doglio, senta un'ultima cosa, la casalinga di Voghera, che in Italia è stata presa ad esempio per l'Auditel da tanti anni, ecco, sparirà, e chi prenderà il suo posto? Verrebbe da dire che prenderà il suo posto una specie di casalinga robot frutto di tutti gli algoritmi incrociati che sono i nuovi sistemi di verifica e di lettura dei comportamenti. Che se ha più di 18 anni non esisterà, insomma. Che se ha più di 18 anni, ma sai, robot gli si dà l'età che si vuole. Ma a proposito di utenti del futuro, di robot, sentiamo la Sora Cesira che cosa ci racconta questa settimana. Se stasera non ci fosse la prima di Gomorra, te la darei, ma devi accettare che in una scelta tra te e il decoder tu sei invisibile. Beh, fortissima. Allora, con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena fare, vedere, leggere, ascoltare. Allora Alessandra, questo weekend? Partiamo da un libro molto attuale, Sbirritudine, di Giorgio Glaviano, che racconta la vita vera di un poliziotto nella provincia siciliana e lo fa in forma di thriller. Giorgio Glaviano è uno sceneggiatore e per raccontare il suo libro ha scelto questo film. La mia famiglia, i miei figli, mia madre vanno in giro a testa alta. In ogni quartiere di questa città possono andare in giro a testa alta. In tutti i 5 distretti sanno chi sono. Che te lo dico a fare? Sanno chi sono in tutto questo mondo di merda. Era Donny Brasco di Mike Newell con Al Pacino. Ecco, Giorgio Glaviano. Perché questa scelta? Perché il racconta di un infiltrato, appunto l'agente Joe Pistone, che si fa chiamare Donny Brasco, che si infiltra in una potente famiglia mafiosa di New York. Nel romanzo, che è basato su una storia vera, Sbirritudine, si racconta di come un poliziotto che fa fino in fondo il proprio dovere, alla fine è costretto a imparare le regole e le modalità dei mafiosi per poter combattere la mafia stessa. Cos'è la sbirritudine? Questa sorta di sesto senso per la mafia, che un poliziotto deve possedere all'ennesima potenza. È quel senso dello sbirro che in Sicilia è portato fino alle estreme conseguenze. Senta, nelle prime pagine del suo romanzo fa dire al suo protagonista che la mafia in Sicilia è dappertutto e fa l'esempio dell'incidente stradale. Dalle diverse reazioni si riconoscono il siciliano e l'italiano. Ce lo spiega? Giù in Sicilia, essendo io palermitano, è capitata tante volte. È semplice capire, quando scendi dalla macchina e hai avuto un incidente, se quello che è di fronte è o non è un mafioso, un appartenente a una famiglia. Lo vedi da come si muove, dal suo atteggiamento. Ti rendi conto se lui è o non è un uomo pericoloso oppure no, uno con cui appunto firmare il CID oppure lasciare perdere. E quindi c'è un'incompatibilità da un certo punto di vista tra siciliano e italiano? Beh, incompatibilità nel senso che il siciliano possiede il stesso senso per la mafia, l'italiano probabilmente non l'ho ancora sviluppato, anche se ormai la mafia è arrivata dappertutto. Sbirritudine parte da una storia vera, nasce da un suo incontro con un poliziotto, ma poi quanto è rimasto di vero nel suo romanzo? Diciamo che c'è un 50% e 50%. Sbirritudine di Giorgio Glaviano, pubblicato da Rizzoli. Un viaggio lungo un ventennio nel cuore della Sicilia, di Cosa Nostra e anche della trattativa Stato-Mafia. Cinema questo weekend è arrivato il nuovo film di Jacques Audiard, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, di Pan. Ce lo racconta un'inviata molto speciale. I David di Donatella. Che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao. Scusi Donatella, ma è di nuovo dentro al cinema? Sì, però ecco, mi sto spostando così mi senti. Va bene? Sì, Donatella. Allora, l'ultimo film di Jacques Audiard. Sì? Sì. Si chiama Dipa. Dipan. Dipa. Però mi sa che lo sto vedendo in indiano con i sottotitoli in francese, penso. Ma quindi? No, io l'indiano lo capisco perché dove abito io è pieno di kebabari. No. Il francese invece... Però ci sono le figure, quindi io la trama te la posso dire. Meno male, Donatella. Ci dica, quindi, ci dica la trama. Allora, sì, c'è presuntivo, indiano direi, deve scappare in Europa perché è un ribelle. E allora prende una moglie che però non è sua moglie e prende anche una figlia che non è sua figlia. Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. Ma quindi Donatella, mi scusi, ma il film lo sta vedendo in italiano? Dici? Dico, sì. No, perché prima mica parlavano così, prima parlavano in indiano. Vabbè. Comunque, questi 3 disgraziati partono tutti insieme e scoprono che come famiglia finta poi sono meglio di tante vere, che poi se ci pensi non è così strano. Però sono sfortunati tantissimo, perché dopo tutto il viaggio, le cose, finiscono a Parigi, però nei quartieri poveri. Chi sono quelli? Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere. Oddio, Ganesh. Ti supplico di vegliare su di noi. E fa che tutto alla fine vada bene. No, non va tanto bene. Allora tanto valeva che restavano in India, almeno parlavano la lingua, no? Non lo so, Donatella, il film lo sta vedendo lei. Sì, però adesso devo scappare. Si è appassionata. No, e ti ho promesso a uno che lo svegliavo quando passava quello dei gelati. Ah, ecco, certo. Ma Donatella, non vogliamo ricordare gli interpreti? No. Perché? No, perché mi fai proprio una cattiveria. Perché? Perché hanno tutti nomi strani, insomma, non li so dire. Però il film ha vinto a Cannes. A Cannes, Donatella? Ma vale la pena vedere Dipan? Ma è un film intellettuale, un sacco. Almeno per 3/4 è intellettuale, poi invece si menano. Ah, grazie. È stata chiarissima, Donatella. Grazie, come sempre, utilissima. Dipan, l'ultimo film di Jacques Audiard, regista del bellissimo Il profeta di un sapore di ruggine e ossa e vincitore quest'anno della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Brava, sei sempre tutto tu che neanche l'hai visto. Non te l'ho detto, ecco. Ecco, grazie, Donatella. Prego. Ma ecco che, come tutti i venerdì, è arrivato anche Pietrangelo Buttafuoco. Alessandra, eccomi! Pietrangelo, ma noi questo weekend che cosa facciamo? Mi propongo di prepararsi spiritualmente ad un film fondamentale, perché la commedia italiana detta legge su tutto. E siccome abbiamo necessità di capire il ruolo, quello del padre, io propongo Belli di papà. Ma li hai visti gli stati conto dei ragazzi o no? Chiara, 14.000 euro di estetista. È pelosissima. Si scopava una professoressa? L'hanno anche beccato scoparsi la bidella e la segretaria di facoltà. Mia figlia non lavora, tu cosa fai? Avevo un'attività che ho dovuto chiudere perché era un po' troppo avanti per Milano. E verso Brescia era? Capriate. Dimmi quello che farei adesso. Andare luna di miele a Bali, 6 mesi. Minimo ci vogliono 6 mesi a Bali per rinfrescarsi le idee. Io non sarò eterno. Papà, io sono pronto. È giunto il momento che mi passi la mano. Dobbiamo variare, diversificare. In che senso? Compriamo l'Inter. Ecco, con Diego Abatantuono ci facciamo raccontare Il padre o Il papà secondo canone di commedia. Buongiorno, Diego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Volevo scusarmi perché ho un abbassamento di voce, ma sono io. Sicuro? Non stiamo intervistando qualcun altro? No, sono io. Ah, va bene, ci fidiamo. Allora, questo papà com'è nella commedia che presenti? È uno che si è fatto da solo, nel senso che è arrivato da bambino dalla Puglia con una famiglia normale, povera, insomma, cercavano un po' di fortuna. Lui è riuscito a farla, questa fortuna, è diventato veramente molto molto ricco. È rimasto vedovo e quindi le due cose hanno fatto sì che i 3 figli suoi sono rimasti un po' soli, insomma, sono stati poco seguiti, perché questo è un eterno dilemma problema, ovviamente la frase è non ci sei mai e io non ci sono perché lavoro per voi. Ah, il tema del senso di colpa. Beh, no, non è il tema, è la base. È la base del rapporto. È la motivazione per cui questi tre stanno diventando tre somari, perché ovviamente compensando questa mancanza con il denaro, questi sono molto ricchi, anche i figli, e quindi spendono, espandono, ma non stanno dando nessun frutto, insomma, stanno perdendo la cotenna, come si suol dire, e si rendono conto che gli stanno scappando di mano questi tre figli, quindi a quel punto tenta un escamotage per riportarli sulla retta via, perlomeno per metterli in contatto con la realtà. Ascoltiamo un frammento, Diego, scusi. Esatto, ascoltiamo. Papà, allora come stai? Ma il medico ha detto che è stato un infarto, un brutto infarto. Oddio, tutto per colpa tua, depravato. Sì, invece tu con Loris ci fai stare tranquillo. Cosa tu. C'entra Loris adesso? Me lo gli scemi spiegare? C'entrano sé. Ragazzi, mi hanno preso per i capelli, ero più di là che di qua, per piacere. Sembri più vecchio, papà. Grazie. Allora, cerchiamo di tirare fuori qualcosa di buono da questa sfiga, va bene? Io non sarò eterno. Papà, io sono pronto. Era un modo di dire. Senta, ma lei, come nel film, se non sbaglio, ha tre figli. Come nel film ho tre figli, ho proprio una femmina più grande e due maschi più piccoli, 30, 20, 18 anni. E ha gli stessi problemi No, assolutamente no. Prima di tutto perché non sono ricco come protagonista, perché avendo un socio che è lo Stato, che al 50% sta con me da tutta la vita, e quindi questo ha notevolmente, e poi insomma perché proprio non sono come, e i miei figli in compenso sono veramente l'opposto dei tre figli. Una domanda, ma fa più danno essere un figlio di papà o un cocco di mamma? È un fatto di equilibri, credo. La famiglia è fatta di persone che si parlano, che discutono, che litigano, e non portare i rancori, non tenere i musi, non creare una cappa di manicomi in famiglia. Belli di papà il film, ed è adatto anche ai cocchi di mamma. Sigla. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ma ora parliamo di musica insieme a Franco Schipani. Ciao Franchi. Franchi, che bello essere di nuovo qui con te. Altrettanto Alessandra, con in sottofondo Hanno ucciso l'uomo ragno di Max Pezzali. Oggi infatti vi consiglio Max Pezzali, diventato famoso con gli 883, poi dal 2004 cantante solista. Ma che cos'è questa mania, Alessandra, che quando poi hai successo con un gruppo vuoi fare il cantante solista? Si chiama protagonismo, okay. Temo che sia quello. Cioè, ma se tu fossi stata per esempio una delle Spice Girls, chi saresti stata? Io lo sapevo, mi avresti fatto la domanda difficile. Vuoi sapere? Dimmi. Bridget Jones. Ok, va bene. Max Pezzali comunque è uno dei cantatori più seguiti in Italia, lo sapete, ha venduto oltre 7 milioni di dischi. Il suo nuovo CD è prodotto da Claudio Cecchetto con Perone Ferrario e si intitola Astronave Max. Sono 14 brani molto belli dove si parla dello spazio, dove si parla di un viaggio nella provincia. Ecco, gli appuntamenti con Max Pezzali per questo weekend sono due: domani e dopodomani, 24 e 25 ottobre, al Pala Alpi Tour di Torino. Il divertimento è assicurato, ne vale la pena. Restiamo in Italia, Alessandra, con lo dico? Vasco Rossi, che poi non si chiama più Rossi ma si chiama soltanto Vasco. Lui è Vasco. A proposito, tu dici di cambiare protagonisti. Nome, protagonisti, insomma, quella di Vasco è una vita dalle mille stagioni, ce la racconta Giovanni Minoli. C'è Vasco, i suoi amici, i suoi fans, la sua famiglia e naturalmente la sua musica. Restate con noi. Sono un ragazzo di strada e tutti per...